ho microfoni da palma, quindi ci ho attaccato la MB più 4. Ma questo va veramente bene, Massimiliano. Ma per me deve abbassare un pelino. Per me è troppo forte la radio. Ah, addirittura, ma se vabbè mi sposto un pochino dalla. Sono a circa 20 centimetri dalla bocca, eh. Magari lontananza non è chiara chiara, eh. Io ti ascolto così, fino, magari è troppo vicino per me. Ma in lontananza ti ascoltano meglio, capito? Le manca qualcosina secondo me. Un microfono normale mi mascia. No, attaccatelo alla bocca, non ti allontanare. Se ti attacchi si abbassa la modulazione. Guarda, adesso ce l'ho praticamente a fianco. Ora, ora. Guarda se cambia qualcosa, si aumenta un po' di watt l'audio. Ora, 1, 2, 3, prova, prova microfono, prova di modulazioni. La radio ti aumenta anche, è una bella radio, Così è meglio quando aumentate il watt. Ho aumentato il watt, dalla radio mi. Adesso mi sta dando, ma io non ci credo, Aspetta un attimino, scusate. Vediamo un attimino, allora, sono. Oh, ora, cazzo, fa da 20 a 50 watt di modulazione. Ma se te l'ho detto, sì, da 9,15 a 9,20 vai di picco di modulazione. Allucinante, bella radio, cazzo, bella radio. Ma non l'hai mai provato sto microfono, però, quando te l'ho dato? Sì, sì, l'ho provato. Guarda, prova a aumentare ancora il watt, Occhio. Ditemi se cambia qualcosa. Ora, 1, 2, 3, prova in modulazione. Ora. Allucinante, correggetemi se sbaglio. Più aumenti la potenza, più aumenta la radio. Massimiliano, cosa ne dici? Questo è il President Lincoln, sicuramente modificato perché non lo stavo più utilizzando, l'ho prestato. E per così, adesso ho messo questo dynamic. Mi fa, cazzo, quasi 100 watt, Sì, addirittura. No, è aiutato. Esatto, mi pare strano. Per me devi abbassare un pelino, per il passaggio di prima, senza aumentare il watt, era meglio. Aspetta un attimino, perché qua avevo una regolazione, guarda se cambia, Guarda un po', dovrebbe essere diminuito. Ecco, così in questo passaggio la radio va bene. Puntella. Ottimale. Bene, no, sai perché? Perché questo Lincoln è il classico che se aumenti un cursore va in distorsione, invece così a mezzogiorno va bene. Signor Radio, ma roba davanti, se già mi non te l'avevi dato sul microfono. Tu, ma lo sai cosa devi farti? Senza debità, tu anche tu sei un dipo, una volta, se sei sempre ducchenne. Questa radio non toccarla più, lasciala così. Vabbè, però ti faccio una cosa adesso, guarda come si rovina. Io adesso stacco il 747, va, te lo faccio in diretta. Adesso l'ho staccato, ha cambiato qualcosa la modulazione? No, non si è rovinata, si è abbassata un po' la radio, ma la modulazione è sempre buona. Se lo sappi non te l'avviate sul microfono, sto scherzando. È buono che ce l'avevi conservato anzi buttato in un cassetto. Guarda i picchi di modulazione così invece come sono, molto più bassi, Credo di sì. Vai puntella con la radio, vai picchi in modulazione, sei 9,10 con picchi quasi a 9,15, quando agganci sei 9,15 con picchi a 9,20. Sì, ma infatti lascio così, va, che mi piace di più, a me piace pompare, che pompa, 9,20 pieno sei, e la radio è spettacolare, bella. Sì, lo sai, se te l'ho dato perché a me non mi serviva, però un buon microfono quello, perché è il tipico microfono come quello che si usava una volta, no? Lo standard, il Tokai, il Pace, quei microfoni sono me. Sì, vabbè, no, volevo mettere il più 4, quello tuo Massimiliano, quello che avevo preso da te, però devo fare le connessioni. Provalo, quando le fai le connessioni, o se no momentaneamente te lo tieni così e usi quello. Ma a me non piace tenerlo in mano, mi piace appoggiarlo. Vabbè, una volta lo appoggio, una volta lo dai, no? Va bene, grazie del controllo, sono qua. Allora, vai, ok, vai Giulio. Ok, per salutare a Tino, ciao Tino. Sì, stai uscendo bene. Vabbè, dai, continuate che sto guardando la televisione e casomai dopo, se ho voglia, entro anch'io, dai. Riprendi pure Gianni e grazie comunque. Avanti. Ciao Giulio, scusa, io sono entrato senza sapere neanche chi c'era. Facciamo un'ulteriore prova, che c'è un Michigin, un tasto di Michigin qua. Ora, vediamo un attimino. Ha passato così, vero? Ma stai sporcando quella radio, ma vengo anche a mettere qua il capo. Ah, sì. C'è un tasto e uno schiaccio, così è più basso, vero? Ma stai sporcando, ti ho detto, non truccando un gattato, devi duccare, la stai sporcando, mettila com'era. Sì, no, così circa alle 20, ti vuole Antonio. Ehi, va bene, va, così è come la prima, scusate un attimino, vediamo cosa vuole. Bravo, lasciala così. Ciao Robert, buonasera. Lo so, ma lui, siccome è alto e grosso, è 2,50 m, allora non so dove mettere le maniche. Andava così bene, lascia là. Ma si vede, quello è il microfono dello standard, quello che ti ho mandato stamattina, la foto. Il microfono originale di quella radio. È buono, buono, aspetta che vado con GH piccolo. E gli hai detto che è buono, è condensatore. È come quelli vecchi del Pace, del Tokai, quei microfoni sono. Avanti, doppio numero, prendi. Nara. Ehi, Angelito, va bene, vai, ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo. Io domani non ci sono, sono a Olbia. Quindi non si può fare niente. E poi c'è il vento, ha dato vento anche domani. Quindi dobbiamo pizzicare la giornata per montare sto cacchio d'antenna. Avanti a chi tocca. Gianni, ciao. Avanti a chi tocca. Natalia, riprendi tu, Gianni non ha ripreso, fai girare, vai, c'è anche Riccardino. Ma tutti i pari di gente, tutti a lui ti siete andati. C'è gente curiosa, cazzo, c'è un QSO, tutti spariscono, vero? Vabbè, allora Roberto. Sono io, Claudio, mi ascolti a me? Sì, aspetta, un attimo, io questa canna a pesca, non la metto io canna a pesca, io c'ho di poli. 15, 20, 40 e 80. Il resto direttive. Avanti, un attimo il break, avanti Luciano, dove sei? Claudio, in zona più avanti di Sacchid. Ascolta, poi mi una curiosità. Quando attacco la segretaria mi aumenta il QRM, in lontananza poi non vi sento più parlare. Aia Luciano, segno brutto. C'è qualcosa in corto. Segno brutto Luciano, c'è qualcosa in corto lì. Potrebbe essere l'interruttore o un rientro che non fa agganciare il relè. Un rientro che non fa agganciare il relè, Luciano. Controllalo, apro e controllalo. Aperto, se aggancia il relè. Va bene, ti ringrazio, ciao. Ciao Luciano, fammi sapere. Avanti il break. C'è anche il VFO, se lo trovi. C'è il VFO e la colonnina esterna anche. C'è il ricevitore, il trasmettitore e il VFO esterno e la colonnina esterna. Sì, vai attacco legati perché c'è l'attacco per attaccare il VFO. Tu il VFO non ce l'hai, quindi non lo attacchi. Con l'altro pezzo ti colleghi dove ti devi collegare. È sempre la stessa cosa, già, quando vendono sempre a metà, io non riesco a capire il perché. Molte volte io ho rifiutato radio belle, a prezzi interessanti perché non c'ho il microfono normale e con cosa modulo io? Mi devo comprare un microfono? Tieni dira e non ne ho comprato. Un sacco di volte mi è capitato, a me sta storia, uno vende una radio senza microfono, la radio è nata col microfono suo originale, tu lo devi dare, cosa te lo tieni? Sai quanti 440 ho comprato io senza microfono? Fortunatamente ne ho, che io voglio dei microfoni, e quindi qualche volta l'ho comprato, però mi si girano sempre le balle, io non me le vedrei una radio senza microfono originale, perché, hai capito, costa, no? Ebbene, quindi la radio è nata col microfono originale, tu la devi dare col microfono originale, tutto qua. Vabbè, avanti, se c'è rimasto qualcuno in questo canale, se no per abilie di luci e chiudo tutto e me ne vado. Ho ripreso? Vabbè, tu hai con TH Piccolino, l'altro sono andati tutti a cortare il canale 20, non vai più nessuno oggi. KK. Vabbè. Vuol dire che vogliono ascoltare, cosa vuoi dire? Ma se c'è un QSO io rilancio e non riprende nessuno, alla fine non me la fotti nuda, non rilancio più a nessuno, così rimangono tutti in parcheggio. Riprendi, riprendi Massimiliano. E Riccardino dov'è? Non lo so, non ha ripreso più neanche lui, sono tutti pariti. Non ti preoccupare, fai pure, quando rientri poi chiami, non c'è problema, ok? Avanti Capri, l'ho avuto, ma non va bene 27 già, io non... Qua c'ho tutte le foto, ho avuto il 101 linea completa che me l'ha data Carlo, non Carlo di Chiaramonti, il 102 linea completa che me l'ha data Carlo di Chiaramonti. Il 700, il 930, il 920, le ho avute tutte quelle, capito? Non mi voglio garrare a Gaggia di Mondetta, perché tanto poi le metto lì, spendo un pacco di soldi, perché costano, costano, e non le uso, non me ne faccio niente già, la verità. Piuttosto, mettimi a posto quel 2001, fai la cortesia che mi serve. Datti una mossa, metti le valvole, provalo, testalo, fai quello che ti piace, che mi serve il 2001. Ciao Capri, dai, volevo sapere chi è che sta provando quel abortante. No, ma Cilia, guarda, da lunedì potete andare tutti a farvi fare in quel paese, perché veramente siete liberi di uscire senza autocertificazione, i sci di Baro Vandetti, lasciate il canale 10 libero, cazzo, per carità. Cioè, cazzo, stavo a parlare a Capri, c'era un abortante Santiago 910 qua, perché io non l'ho vista sotto. Sotto, perché già ne arriva un po' più forte, ma è una cosa allucinante, io non riesco a capire perché quando uno sta parlando si mettono a provare nello stesso canale, me ne sono altri 39 libari, non ho capito il perché, sta succedendo spesso. Vabbè, sì Gianni, e mettiti sotto e fallo, se ti serve roba me lo dici, cerchiamo, facciamo, quel 2001 la metterò a posto, la metterò a posto perché lo devo usare. Se poi vediamo che non si può riparare, pazienza, andrò a Vugiaro, velocemente mi occupare di nuovo e già ritroviamo, non ti preoccupare, già ritroviamo. Il 2001 Massimiliano all'interno cosa c'ha? Il 750, no? No, il 2001 all'interno c'ha il trasformatore, c'ha 4 valvole EL509, oppure le 519 per montare. Ah sì, io sto confondendo con l'altro. Con l'altro. Sì, quello è a valvole, sì, vabbè, quello sta riparando Capri. Ascolta, l'altro, quello che monta, quello transistorizzato però che vende Fugiaro, che monta il B750 dentro, cos'è? Quello è il 2002. Il BV2002 che è transistorizzato, quello lì è, no? Yes. Ascolta, funziona bene? Scusate un attimino, Claudio. Dimmi. E questa cosa ti sembra? Meglio dell'altra. Vabbè, questo è un più 4, questo è un più 4, quindi diciamo che è più amplificata, credo. No, va bene, questa va bene, è bella amplificata, bella forte, meglio dell'altra, sicuramente. Bene, bene, va bene, non dico cos'è perché tanto non lo indovinerai mai. Questa ha detto che è un più 4. Sala 48. No, no. No, non lo so, ne hai tanti baracchini, blu, non lo so. No, tanti. Questo è un Zodiac, Massimiliano. È buono, va bene la modulazione. Ma come quello che ho io, base? No, un veicolare, il 50-36, pacchetto di sigarette, dai. Però sicuramente è aiutato, dai, è modificato l'interno. Anche questo è in vendita, Vendi. No, vabbè, Zodiac, sono sempre baracchini così, forma, Zodiac, Inuit. Io ho il base di quello lì. Io avevo il base di quello, il Zodiac 50-24 che è base, c'era anche già nel KP2 quello. Vanno bene. E i baracchini vintage vanno bene tutti. Ok, avanti sta vincendo, quindi va bene quello lì? Dipende, cosa dovrebbe usare, con questa radio così sì? No, con il Polman. Che il 2002 vuoi usare, boh. La rosa. Sì, tutto pareggio. Vabbè, compratelo. Allora, Pia del mercato sono intorno ai 350-400. Era nuovo, usato, era nuovo. Non le voglio usato io, ma poi arrivi e non dati i fatti che devi dare. No, no, no, lo voglio nuovo, più o meno nuovo quanto costa. Nuovo non lo fanno più. C'è la Fugiaro, mi ha detto che... mi aveva detto un giorno che ce l'aveva, sull'ordinazione. Ah, lo sagato c'ha Fugiaro, ma se non va un PL in macchinetta, Fugiaro va un lineare BFuso 1002, ma lascia perdere. Ma Silvia, io quello che avevo dato a Gigi l'ho comprato lì, che poi l'ha dato a te, non lo so, Gigi l'ha fatto il lineare, il 501, io l'ho comprato lì. Il 507, ma se fa vedendo 15 anni fa, claro, io dai. Così mi ha detto lui, Massimiliano, cosa vuoi ti dica? Così mi ha detto, così ti sto dicendo. Perché quando ho comprato i microfoni l'anno scorso, gli ho detto, ma lineari come si è messa? Lineari non le tengo, quando ti servono me lo dici e te lo ordino. Fate l'ordinare allora. E allora mettete in tasca la 500, non ti basta 500 euro. Oh, così tanto costa. E vabbè, ma tu mi dici che è un buon lineare? Ti dico che è un buon lineare. 600 watt le dà con una radio modificata, una radio così normale come quella le darà 400. Sì, vabbè, perché adesso vedo un po' fare un'operazione a me al telefono stesso, o fare un'operazione allo stesso, perché l'RMI è troppo rumoroso, non si butti lì, cioè si può usare col in HF, capito? In HF lo uso, perché c'è un microfono normale sul 756, ma quando tu usi il microfono da tavola, per carità, non si tenne nuda, si sentono solo queste ventole fortissime. Senti, quello di Stefano, ti ricordo che io quello di Stefano ho provato qua, già ci di tu, 250 watt, un 507 che c'ha due finali da 300, da giù di tutto, ed è un due finali, quello lì è un quattro finali da 50 watt in meno. Vedi un po' tu, dai, Claudia, ce n'è uno in vendita, già ce n'è di quelli, va. No, Massimiliano, cazzo non mi capisci tu a me, no? Non mi interessa quello che abbiamo provato a casa tua. Ti sto dicendo, quello che mi ha dato Stefano, l'RM Italy, è troppo rumoroso, non lo posso usare in AM, capito? Lo uso in banda laterale col 756 in HF, perché c'è il microfono normale. Quando tu le metti un microfono a tavolo, si porta dentro queste ventole, è una cosa allucinante. Lo so, quando lo usi in HF sì, ma quando lo usi in 27 le ventole le senti tu, ma gli altri non le sentono, non ti preoccupare, capito? È un casino questi alimentatori, cioè queste lineariti così con le ventole, ma ti ripeto, è un casino. Lo vedi un po' tu. Boh, adesso vediamo, comunque devo prendere un lineare grosso per abbinare al Polman, lo voglio far diventare turbo con la radio. Facciamo bene, c'è una bella ricezione. Vabbè, c'ho il 300, però hai visto la potenza, vabbè, in quinta è nella sui 120, in sesta aumenta a 150, però sattura la modulazione, sempre la rottura di balle. Lo so, i B300 sono così, i B300 sono così, qua. Purtroppo hanno questo coso. Rottura di balle, vabbè, sono 30 watt persi perché non si può usare in sesta marcia. Non si può usare in sesta marcia, sattura troppo, invece in quinta va bene, in quinta va bene. Va bene, dai, ok, che ci è rimasto in questo canale, a parte noi? Sei tornato, Ricca, riprendi allora, vai. Bello quell'alimentatore, mi piace, quanti ampere? 28. 28? 28 ampere. Sì, va bene, ok. Ma, Ricca, come fa 28 ampere? Ma cos'è il Massimiliano, un alimentatore vintage? Perché 28 ampere non li facevano più da tempo, 25 o 30? adesso ti giro la foto. Girimela, fammelo vedere, perché che mi ricordo io, 28 sì, li facevano un tempo, poi hanno cambiato, hanno fatto 10, 15, da 20, da 25, da 30, capito? Davanti break. Ho fatto 140 euro, Claudio, costa quello, il DV2002. Quanto? 840 euro. Ma non manco mi scende, meglio che prendi 840 euro, buon veniali, da buoni usci. Salto la palla, no, può spendere 300, 400, 500 euro, va bene, 840 euro, cazzo 840 euro mi compaggio un 1000 euro, mi compro un amplificatore HF professionale usato. Lo so, adesso ti mando la foto, ti mando. Avanti, come ti senti, basta pulire l'antenna, vuol dove ci si vuole nei brattiche. No, la mia è 9 più 10. 9.15 il radio non ne hai più. Se spegni sì, Santiago 9. Ehi, Anto, sto scherzando, già lo sai. Già va bene. Sì, bello. Acci picchiaro, Riccardi. Bellissimo questo alimentatore. Molto bello. Sì, sono alimentatori che facevano prima. Da 28 ampere. Molto bello. Bello, bello, bravo. Della Nissei, sì, la Nissei, l'ho avuto anch'io della Nissei, sì, però li facevano prima, adesso non so se li fanno ancora, 28 ampere, interessante, molto bello, sì, bello, io ce l'ho così, però il mio è della Proxel, da 60 ampere, così, con gli strumenti così. Avanti Massimiliano. Sì, vado là, incontro l'Antonio, ma è andato già via là. Quando sgancia Santiago 2, radio 0 completamente, poi quando attacca arriva Santiago 6 con un ronzio spaventoso sotto, e poi aumenta ancora, arriva quasi 8, e radio non viene più, e rimane il ronzio là, tutto qua. Massimiliano, 840 euro costa il B2002. Ah no, è un'altra entrata in capo. Se lo vendono per 400 euro, usato. KK, no, io c'ho il 2001, però lo sta riparando Capri. Vediamo se riusciamo a metterlo a posto. Vabbè, dai. Avanti Capri 2 per i saluti a Giulio e compagni. Questo corno non trova portante. Stavo parlando, non è possibile. Ma non è possibile veramente. Guarda WhatsApp, Claudio, anche Massimiliano. Non è possibile. Sì, già, ti ho capito, ma c'è uno sotto, vai. Gridando, facendo, non è possibile continuare così. Credetemi, non so più cosa dire. Dai, io vi lascio, ci sentiamo più tardi, se coincide mi devo spostare. Ciao. La stessa cosa ti dico, quel ricco c'è per me, ci sentiamo più tardi. Se la Gaffedone ribassa lo macchini di Triba, se no prendetevela. Continuate voi, a me non me la fotte più nulla, dai, non si può continuare a parlare così. No, mi dispiace dirlo, ma o vi mettete in testa che quando uno sta parlando non bisogna sovramodulare, bisogna aspettare il turno perché parli, o se no parlate da soli. Ciao a tutti, QRT per me. Ciao Massimiliano e ciao Claudio, io e anch'io sono QRT. 888 contagi in Italia e 195 morti in Italia oggi. Va bene, guarda le cose, perché ho mandato una fotografia a Claudio del 2002. Sì, l'ho vista Giulio, sono a guardia. Ciao, chiudo. Arrangetevi, ciao a tutti. Sì, già si calmano. Vabbè, dai, ci sentiamo, anch'io adesso continuo a seguire la televisione. Ciao, ci sentiamo. Ciao, già, non si può continuare questi video, mi dispiace. La gente si mette in testa di essere un po' più educata, se no che parlino loro, a me non mi riguarda più. Ciao a tutti, QRT. Ciao Riccardo, scusa, ma io così non riesco a parlare. iniziando a entrare troppo a mon destra, mi dispiace dirlo con tutto rispetto, ma è così. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ok, ciao Riccardo e ciao anche a Gianni Capri2, se mi sta ascoltando. Anch'io rimando il QRX, dai. A più tardi, sperando che non ci siano i maleducati in frequenza. Ma non è rimasto nessuno. Riccardo, mi ero spostato per provare un apparecchio a macchina, invece non funziona. Papà, per il giorno di via tutti, andate via Massimiliano, Claudio e poi il QRX, Giulio. Già, chiama portante, a me così non mi va di parlare, sovramodulazioni, portanti, sta entrando troppo a mon destra, quindi io preferisco rimanere in silenzio e se continuano così non c'entro più, ciao. Sì, dai, se per i subiti, non c'è problema. Avanti Riccardino, se io sono uscito in macchina per provare con l'apparato, ho avuto la grande sorpresa che l'apparato si sente QRN e non si sentono le parole, le persone. Ma le foto dell'apparato che ti è arrivato, l'ho già viste, te l'ho detto, è un bel bello quell'apparecchio, ti piace? No, domani fa un po' di altre cose. E ora il telefono scarica, non ce la faccio. Vabbè, guarda che le foto qui. Kappa, se sei contento che ti arriva l'antenna con la mia. Papà, non si pare. Solitamente ci mette 3 giorni. Ma c'è stato un po' per a Milano del Corriere, quindi è partito anche in ritardo. Ho capito. E va bene, ma però non c'è rimasto nessuno sul canale. Eh beh, perché quando c'è la gente la fanno scappare. Dai, sto controllando con l'apparecchio. Ok Gianni, anche io rimango il Corriere, stato sto ascoltando per la qualche notte. Qualcuno su 10? Ciao Roberto, sto usando il Colt adesso. Cacchio, bello, più forte sei adesso, sei oltre 9 più 10, come mai? Ma c'hai l'amplificato? No, non ne ho l'amplificatore, l'ho passato al Colt. No, oh, sta andando benissimo, bella forte, chiara la radio. Questo è il nuovo, l'ultimo che è arrivato. Ma poi io ho inviato anche la foto di quell'altro. Sì, sì, sì, ma l'alimentatore è il nuovo anevuto, l'avete comprato? No, non è tutto, però c'è una benissimo. Quello com'è, di quelli switching o con l'alimentatore, col trasformatore dentro? Alla ventola, è un sì, sì, no, l'ho visto, però non ho capito, siccome in figura non si vede la grandezza, se è quella di quelli switching, quelli nuovi, diciamo, nuova generazione, o c'è il trasformatore dentro grande, pesante? Sì, sì, no, ho visto, già sono dei buoni alimentatori, poi è abbastanza forte la voglia, così c'hai riserva di potenza. Chi c'è su questo canale? Solo tu ci sei? Dimmi una cosa, che microfono stai utilizzando? Oh, bella, bella radio, complimenti, sta uscendo bene. Il Mickey Game tutto al massimo. Tutto al massimo, tutto. C'è anche la regolazione della potenza con l'apparato? Sì, perché lo slide o phone, RFG, calibre, quench, volume e tutte bandette. Sì, sì, sì. Ok, no, bella radio, complimenti. Tutto a posto di... Con cosa la stai alimentando? A 220? Sì, la sto alimentando a 220. Sì, sì, no, ma qui non ha neanche disturbo, va bene, dai, è pulito, perché molte volte quando rimangono molte cose, tanti anni fermi con gli apparati, qualche condensatore magari va in perdita, per cui si sentono un po' di ronzii, di residui di alternata. No, ma stai andando benissimo. E dimmi un po' l'antenna quando arriva, Ricca. Ma te l'hai ordinato perché è quello che c'era insieme alla, alla Fatic? Alfa Delta, no, è stato M, M3B si chiama quello, quello nero con la scritta in alluminio Tanner più 3B, quello lì. Sì, sì, sì, è uguale a quello che c'ho io. Adesso devo vedere un attimino di tempo e trovare un attimo di tempo per guardartelo col microfono. Pensavo fosse uguale al Tanner mio, invece è tutto diverso, c'ha un circuito di amplificazione diverso. Quando c'ho tempo te lo sistemo, così lo provi, che sono sicuro che funzionerà alla grande, a meno che non ci siano altri problemi. Ok, e cosa volevo dire? Lì Smith, quanto arrivo con quello al baracchino, il segnale? Aspetta, mi ha mandato la cosa, la foto, aspetta un attimo. Ma com'è ti stai prendendo anche questo baracchino? Cosa te ne fa? L'apparato in fotografia non mi sembra nuovo nuovo, e ho qualche dubbio sui potenziometri, sulle cose, i pulsantini dei potenziometri, non lo so, magari è originale, però ho qualche dubbio. Il Tanner, guardando le fotografie, è nuovo, sembra immacolato, diciamo, nuovo nuovo. Eia. Tanner è sempre un bel microfono, niente da dire, è numero uno. Mi sembra anche un po' più potente di quello Tiberi, come si chiama, adesso non mi ricordo il modello, sia Walter. Questo forse esce un po' meglio, più pulito come modulazione. Vabbè, bisogna vedere naturalmente col microfono suo, più cioè un microfono amplificato e con l'antenna. Se comunque c'è 9 più 10 spaccato, oggi come oggi mai sei arrivato. Come? Sente il rumore di fondo, come lo sente quando dall'alimentato a due giorni, ma ritrovo a vedere la portata e sente sempre un rumore di fondo. No, è tutto pulito, perfetto. No, era solo lo stesso. Ma dimmi una cosa, gli altri ti hanno sentito con questo baracchino? Cosa ti hanno detto? Hai aumentato il segnale? Ti hanno detto qualcosa? Claudio, ma... diminuito. Ma ci è aumentato, infatti è un strano. Non so, forse è l'antenna che sta andando meglio. Non lo so, dimmi una cosa, mi ha mandato anche tuo babbo quel satellite, ma se lo deve prendere o che cosa? È una bellissima radio, è diciamo la versione più piccola del mio, più moderna però un po' più piccola di quello che ho io. Il prezzo è ragionevole, diciamo, non è poco, però bisogna stare molto attenti a dirgli a tuo babbo a quella radio lì, perché col tempo danno qualche problemino. Lascia perdere, dai, e a quel punto c'è bella radio, niente da dire, tanto di cappello, però magari aggiungi qualcosa e ti prendi qualcosa di più moderno e più come si chiama, con più bande di frequenza, perché quello lì è limitato, non fa tutto, per dire aggiungi qualche centinaio di euro e ti prendi un ICR 7000 e c'è un ricevitore che fa da 25 a 1000, a 2000 fa, oppure c'è il 7100, il 7000, vabbè, con gli altri più sali e più costano, ma qualche occasione si può chiedere anche qualcuno a Sassari, perché l'ICR 7000 ce l'ha qualcuno a Sassari, si può chiedere a qualcuno che non lo utilizza e si può far fare un prezzo, almeno si prova, se lo provi e non c'è bisogno di spedizione né niente. Ma quale? Questo qui? Non lo so, comunque secondo me l'hanno anche aumentato di potenza, perché per me sta andando un po' più forte dell'altro. No, vabbè, già lo sapevo che lo Talker Tiberi è molto più grande, è un altro tipo di... Poi c'è l'altoparlante di Pianti davanti, quello lì invece l'altoparlante c'è là sopra, no? È così? Eia. Ok, aspetta un attimino di bianco, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare, ecco, la buonasera avanti. Ebbene, Eugenio, il più forte del portatore. E dove sei, Eugenio? E dai, che tra poco così ti ascolta anche Riccardino. No, io ti ascolto bene, come mi ascolti a me? Sì, ti ascolto benissimo. Ciao, Eugenio, perché? Prego. Buonasera a tutti, Giulio Piro. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Robè, ciao Riccardino, c'è Eugenio. Non so se ci sia qualche altro. Vabbè dai, restiamo qua. Mi riposo un po', ero. Stavo facendo un po' di roba, faccende, adesso mi devo togliere un apparecchio per mettermelo in macchina, ma lo devo sistemare, mettermi un bel microfono che vada bene. E così c'ho un apparecchio in macchina. Eia, ma Riccardino da te ha migliorato già? Ma Riccardino io lo sento sempre bene, Robè. Prova Riccardino. Io lo sento 9,5 sempre, Robè. Per me Riccardino non ha mai, non è mai andato male. Io lo sento sempre bene perché sono vicino e quindi riesco a tirarlo fuori bene. No, allora io l'ascoltavo 9,5, oggi lo sto ascoltando 9,10, probabilmente con la radio tira qualche watt in più, o non lo so per quale motivo. Sai, il fatto che lui era sempre 9,5, 9, certe volte si abbassava, però intorno ai 9,5, adesso è 9,10 spaccato. Sta pagando, ho capito. Vabbè, se non arriverà l'antenna creperà tutto. Ma questa radio c'ha anche una bella modulazione, considerando che è un microfono normale, non amplificato, bella chiara, pulita, non c'ha ronzì, perché l'altro che stava usando l'altro giorno a 2,20 c'aveva dei disturbi, per quello doveva alimentare a 12. Questa è proprio pulita pulita, nessun problema. Ok, oggi riprenditi tutto il mic, vediamo dove si arriva. E ti lancio a Gianni, vai già. Di fronte alla Grindi, di fronte alla Grindi, K. Andava bene, come va con l'ottobre, se tutto bene oggi, io sono un po' che non ci scendo. Sei un quarto. Vediamo un po' se ce la faccio domani mattinata. Eugenio, ma l'hai sentito a Fabio prima quando era con persone? Sì, ci siamo sentiti. Lo volevo incontrare, però stavo per andare a fuori, da picco. Era già alle 4:15. So che ci sarebbe preso un caffè da qualche parte. Capito? Era già caldo, stavo per andare a fuori. Era già anche vicino sicuramente. E basta una perdita, produttore. Già me l'ha detto, già me l'ha detto. Cosa sta dicendo Gianni? Ho detto, se sono aperti in bar al produttore. Oh, ma non lo so, perché io passo sempre la circonvallazione. Dentro città, centro, non ci sono entrate, altro. Non te lo so dire. Sta pagato. Vabbè, dai, adesso piano piano ci vuoi mettere tutto a posto. Vabbè, avanti. Ehi, a col termo se te lo prendi per il caffè. No, devi prenderlo da fuori, ti danno il bicchiere di carta. Qua la cassa di qualche bar già c'è aperto, però è una vergogna, io finiamola con questo cacchio di cosa. Adesso da lunedì finalmente faremo lavorare questi baristi, poveracci. C'è gente che per dire via caffè al quadrato, io vado sempre lì e c'era scritto che preferiva lasciare chiuso piuttosto che incorrere il rischio e roba del genere, che apriva quando c'era proprio l'ordinanza per aprire tutto normalmente. Roberto? Di America. Infatti, lo stavo per dire io, ma ti pare che uno rompe a colpo di massa, ti distrugge la pizzeria? C'è qualche problema al cervello uno che fa così? Magari ha preso qualche infiltrazione d'aria al cervello. Uno, cos'è, cioè che motivo hai? Non ci sono soldi, rimani fermo. Non è che ti distrugge la roba, poi devi riaprire e devi ricomprare tutto. Ma che discorsi sono? Finiamo. È un segno di cosa? Di instabilità mentale. Anche voi penso roba che abbiate avuto un calo di lavoro, no? Non ho capito, scusa. Ho detto anche voi penso che abbiate avuto un calo di lavoro. Certamente, certamente che sì. Adesso questa settimana abbiamo iniziato a riprenderci un pochettino, da lunedì si spera di rientrare, non dico proprio a regime, ma quasi, dai, qualche lavoretto sta entrando, ma quelle settimane lì ci abbiamo tolto tutti i lavori che erano fermi, quelli che fai a tempo perso, le macchine d'epoca, tutte quelle cose lì, abbiamo fatto dei lavori io al furgone, eccetera, eccetera, se no eravamo proprio fermi. Vabbè, almeno vi avete liberato l'officina. Aspetta che ti chiamino. Ha detto comunque Eugenio, io non lo conosco questo tipo, almeno non credo di conoscerlo, che i problemi era già chiuso prima di chiudere per la pandemia, questo qua, probabilmente non lo so per quale motivo. Le pizzerie bisogna stare attenti dove le apri, non è che uno si apre la pizzeria e poi non c'è il giro di lavoro, non è una vicina. Poi c'è con una concorrenza con le pizzerie, lavorano tutte a Roma, se sei bravo lavorano tutte, perché qua vicino a casa ce ne sono, in pochi mesi ce ne sono una, due, tre, quattro ce ne sono. Allora, Sassari in Italia è il paese d'Italia, la città d'Italia che ha più pizzerie per abitanti, una pizzeria ogni 300 abitanti, la media nazionale in Bari sia ogni 600, ogni 700, fate il conto. Allora, mi dice di venire la gara in maniera No, io già la mangio spesso, sabato 99% dei sabati, a meno che non mangi qualcos'altro, mi prendo la pizza, poi qualche volta se capita anche in settimana. Anche io il sabato la mangio, ma dico, mi state facendo la Puglia parlando, non adesso, non è che io sia a regime, anche io il sabato me la prendo solitamente, me la prendo sempre i frutti di mare oppure lo stromo, cortone cipolle. Sì, è buona anche quella lì. E tu dove vai oggi? A Babai a prenderti la San Gavino. Forse oggi ci sei. Io vado a San Gavino a mangiare la pizza. Era sempre numero uno San Gavino, poi ha fatto un po' di pubblicità, all'inizio era discreta, Cilia, però è caduto secondo me. E adesso c'è questo Babai che sono di Fonni questi, ma la pizza ti posso dire, mi ha portato mia figlia, fidanzato di lì, di Porto Torres, insomma veramente buono. Dove c'era il Gobbo, te la ricordi già? Ci abita mia sorella lì, in quel portone lì ci abita mia sorella, portone di fronte. È buona la pizza, ma è andato, prima c'era il Gobbo, le faceva buona, adesso hanno preso l'iniezione questi di Fonni. Ah ecco, lo sapevo. Quella si chiama Via Camitta, Vico Camitta. No, non lo so, io ci sono andato due volte di lì, non posso dire che siano simpatici, perché non mi è molto simpatico, il tipo un po' guballista, e sta arrivando, mi l'ha messa in fondo uno resiste, mi l'ha messa dentro, scusami, no, qua, là, sempre trovando scuse, e poi mi basta un'ora così. Vabbè, ma poi i barbarici sono un po' così, sono un po' burberi, Però ti posso dire, se tu prendi la salsiccia, sai, oppure la prendi con salsiccione, è tutta roba fatta da loro, la roba è buona, la salsiccia infatti c'è scritto salsiccia di Fonni. Mamma mia, non me ne parlare che fa. Ehi, hai ricordi tu la pizza, la mangi o preferisci la fai nel? Ma ci avete il forno di quelli a legna fuori o il forno di cucina? No, il forno della cucina, qui abbiamo l'asciutto sopra. Buono anche di lì, dai. Io qualche volta me la faccio a casa, però prendo, non la pasta, sono da tanti anni che non la faccio la pasta, prendo quelle già preconfezionate, la scaldo e poi me la condisco come voglio io, dai. Già viene discreta, dai, non buona, discreta si può mangiare, dai. Ok, vediamo se l'amico Eugenio c'è ancora, avanti Eugenio. Sono tutti sul canale 20 dove ci sono i vintage. Ah così, si stanno facendo i gruppettini adesso, prima eravamo 4 gatti, ora siamo 10 gatti divisi in due canali. Ok, non c'è problema. Io adesso tra poco, meno 5 minuti, mi stavo attaccando, mi ho passato il cavo, ho buttato giù il provvisorio, poi devo mettere le fascette, sono riuscito perché l'antenna devo alzare poi. E ho sceso il cavo e devo mettermi in PL, così provo l'antenna più tardi, vediamo se funziona. Praticamente ci sono tutti quelli che hanno il vintage, Marco Scorpio, eccetera, eccetera. Sì, ma è fascia neuronale, Roberto, capito? Prova qui, prova là, sfasciano il questione e poi si spostano al canale 20 a parlare. Secondo voi sfasciano il canale? Scusa, non capisco. Prova a fare un po' di casino, prova qui, prova là, portanti, fischi, pernacchie, poi, capito, si spostano al canale 20 a fare il questione e vanno nel canale 20. Non c'è problema, dai. Io qualche volta non sul 20, su altri canali, proprio per non dar fastidio, è capitato con qualcuno fare qualche prova, ma non diciamo, io la radio già lo sai come la vedo, non ho nessun problema con nessuno. Ok, beh Claudio, è tutto a posto. No, manco io, figurati, ma a me non mi interessa stare tutto il giorno provando, facendo, prova qui e prova là. A me piace fare questione, radio, oggi la radio blu. Sì, tutto a posto. Gianni, se devi andare al canale 20, vai al canale 20, non ce n'è problema. E te lo ripieghi, no? Grazie per il permesso, ma non mi interessa. Sono passato per salutare a Marco e basta, tutto. Vabbè, puoi fare quello che vuoi, non ce n'è problema, ognuno di voi fare quello che vuole. Io mi sto riferendo che ogni volta che c'è un questione al canale 10 va sempre, sempre a casino. sempre, stavamo parlando di antenne, di cose, quello che fischia sotto, quell'altro che parla sopra, quello che non sente a quello, un casino, Roberto, un casino che non ti dico, alla fine non fa parlare così, capito? Quindi è meglio che chi deve andare da una parte vada e chi deve andare dall'altra rimanga. Ciao Eugenio, buonasera. Buonasera, sono a casa, adesso vado a farmi la luce e poi riprendo, ciao. Mi raccomando, mi la Nutella. E me lo sta preparando il panino. Oh Luigi, oh, una cosa al volo, la pizzeria tu dove vai, por dottore? Sei San Gavino, Babai o Cillia? Da tutti quanti, non è un problema, io le giro tutte, non ho uno preferito, le giro tutte, perché sono tutti amici e li conosco tutti quanti e mi va di far girare tutto, capito? Ok, ok. Vai, lavati con la spazzola d'acciaio sotto le ascelle che ci sono i pistizzoni attaccati. Addirittura. Dai, a dopo, dai. Ok, riprendi Riccardo. Ok, stavo mettendo il gelato anche a stare, yeah. Ok, vai, come si chiama Gianni? Giorgio, qua è rimasto. Allora volevo andare, io sono qua. Sino a portare il cane rimango qua. C'è calma, tranquillità. No, giurità a guidare il debito. Ma c'era un casino poco fa già, quando ti sei allontanato tu che non viene bene a dirlo. Addirittura tramite un amico, no, che è fuori Sassari. Abbiamo scoperto anche chi è che mette la portante, capito? Non è a Sassari la portante, è a 10 km da Sassari per capirci, molto molto in alto, quindi stai attento se stai ascoltando, perché dal canale 10 non ti faccio più parlare, così la smetti di rompere le scatole alla gente. Io mi sono allontanato, volevo fare una sorpresa, invece ci sono rimasto male, volevo metterci in macchina, e entrare dalla macchina, non vi ho detto nulla, ho chiuso tutto qua, sono andato in macchina, l'apparato non funziona più. Partito, cioè si sente in quel rem e non si sentono le modulazioni. Quale? Era il 48? No, è portante. Adesso metto il 48 plus che ce l'ho fermo e ci metto un microfono amplificato e lo metto in macchina. Cosa hai detto, lo portate? Già usa quell'antenna e metti il baracchino normale, ma usa di nafutti. Per fare due chiacchiere quando sei dentro città, ve ne pari i buchi, guarda che esce bene quell'antenna. No, ma si esce bene. E poi è piccolina, capito? Non aprirò, ma te già l'ho vista. No, non la conoscevo, la prima volta che la vedo, un'antenna così allungabile, mai vista. No, è bella, funziona bene anche. E c'è fino, cazzo, non è manco le 10.58, c'è un fino. C'è scritto un fino speciale, io c'ho proprio tutta la garanzia ancora, tutto quanto, di quando l'ho comprato, lo scontrino, tutto ciò, cazzo. L'ho comprato 50 anni fa, ve la già ancora. Ti ricordi quando modulavi dal portatore, cioè, che uscivi dal lavoro, inizialmente usavi quello, arrivavi il segnale quasi 9 a Sassari, quindi. E già esce bene, però l'antenna posticcia a me, Claudio, non mi è mai piaciuta, a me piace una cosa fatta bene, che non si vede le fili, tutto quanto, ma quella macchina non la voglio fare, non la voglio rovinare. Ma lascia stare, già, non hai visto che la situazione come. Adesso spero che si rimetta a posto, la gente rientra al lavoro, sono impegnati, però c'è troppo brutto. Vabbè, ma per uscire già l'ho fatto anche io, qui è nero il capo, metti l'antenna al centro tetto col cavettino e la lasci stare così, capito? E poi quando hai finito di parlare la prendi e la butti nel tappettino, la sopra si vede. La lasci in macchina già pronta, l'importante è che ti sistemi il baracchino, capito? Ehi, al baracchino metto l'altro, c'ho la 48 Plus che non c'ha microfono, devo buscare, c'ho un microfono, adesso lo faccio, adesso gli metto una capsula, gli faccio l'attacco per il 48 Plus, perché quello c'ha, mi pare, 7 entrate, cazzo, quello lì è difficile un po' da fare l'attacco. Già, niente difficile, basta mettersi piano piano, già si fanno le cose. Che regala. E adesso vediamo, l'estate serve perché magari vai a farti un giro così e parli, capito? Certo, io avevo sia il baracchino che il VHF, poi ne ho tolto tutto, adesso non metto più niente, non me ne ha fatto. Una domanda, Clown, ho sceso il cavo, adesso devo mettere il PL per attaccarlo direttamente, ma devo accordarla ogni volta con l'antenna o vado diretto? Non li devi accordare, come montata, non c'è bisogno di accordarla. No, no, allora vado direttamente, io parlo, una volta è piazzata, lasciamo il cavo, lo attacco direttamente all'apparato e vado, perché voglio andare qua sugli 11 metri, o devo accordarla visto che è una larga banda? No, attacchi al ricevitore, se non devi parlare così devi accordare, non c'è bisogno. Tu cambi banda tranquillo e va diretta. No, se la metto qua sulla 27, negli 11 metri, parto direttamente o devo usare l'accordatore? Non la conosco io con l'antenna. Vabbè, ogni banda ce la c'è accordata. No, già, se la usi in 11, siccome quella c'è 10, è chiaro che la bobina per i 10 deve accordare. Attacca l'accordatore del 440, cosa devi mettere l'accordatore esterno? Inserisci l'accordatore, metti in automatico, 440, pigi e accorda la sola, Robert. Sì, no, sto dicendo, voglio vedere, voglio fare prima una prova diretta, senza niente, quanto c'ho di stazionaria, quanto dà sui 27, perché se no utilizzo l'MT3000, siccome c'ha tutte le bande, 10, 11, 20, 40 e 80, cosa c'ha, 15 metri, c'ha tutto. Sì, una volta che hai impostato la cordatura basta che commuti col coso, non è così? Sì, il 3000 c'ha 10, 15, 20, 40 e 80. Sì, ma puoi anche mettere l'antenna diretta per provare al 440, come ti sto dicendo, e accordi con la cordatura sua in 11 metri. Però prima fai la prova, capito, ancora c'è la bobina dei 10. Siccome la mia bobina non ha la 3 elementi monobanda per i 10 metri, quella che mi ha modificato Marco, però era quella che mi hai dato tu, in pratica, quella era per gli 11 metri, ok, Marco me l'ha fatta per i 10. Quando io la uso quella, non ne uso accordatore, perché stazionaria non ne ha niente. C'ha 1 e 1, 1 e 2 di stazionaria, 10 metri e 1 e 1, 1 e 2, appena appena di più, forse neanche a 1 e 3 arriva in 11 metri, capito? Quindi non c'è bisogno neanche di accordatore. Perché questa è una multibanda, questa qui almeno è dichiarata da 1 a 30 MHz. Sì, va bene, ma me la conosco, te l'ho detto, la conoscevo già quando mi hai detto ancora che era pick up, quella pick up 5. PKV, il modello Allroad si chiama, me l'hanno chiesta un radioamatore, faccio parte di un gruppo, ce la vendevo e la stava cercando, ho detto no, non si vende niente. Non capisco poi cosa se ne possa fare del Multicom, di quello della Intec, lo stesso, perché quello è allargato, quello fa da 25,6 fino a 31-32 fa. È possibile che utilizzino un apparato CB per andare in coso, nei 6 metri? Nei 10 metri. Certo, perché non ho usato il Cobra a 10 metri. C'è un baracchino, perché per dire il Magnum, i baracchini che vanno da 26 a 30, che arrivano, superano i 28, perché non si possono usare 10 metri. Certo, chi lo può usare, io l'ho usato. Il Cobra, io ho la potenza massima 130-140 watt, l'ho usato 10 metri, è come un HF, però chiaramente per chi ha la licenza non si può usare, certo si può usare, e ce n'è di gente che usa i 10 metri con i baracchini modificati o con i baracchini a larga banda come quelli che insomma ci sono adesso, capito? Provola Roberto, provola, sì, la conosco, PKV5 si chiama, quello lo fa PKW. Ok, avanti Gianni, fai girare per Riccardo. Ehi, va bene, adesso l'hai piazzata bene, Roma, l'antenna, tutta piazzata, è ancora appoggiata. Allora, è piazzata nel palo, però per mettere il quinto radiale la devo mettere in cima a tutti, adesso è, infatti non è perfettamente a piombo, devo metterla in cima, farla salire su, ma da solo non ce la faccio, mi devo fare aiutare, ho lasciato un po' di cavo lungo, devo salire di altri 2 metri, in modo che arrivo in cima, stringo e metto le fascette, diciamo l'antenna leggermente inclinata perché sta appoggiando non come dovrebbe appoggiare, ma già abbastanza semplice, solo bisogna farlo in due perché uno solleva e l'altro stringe. Ma muoviti perché se fa un vento te la rovina. Vabbè, tanto non ha nessun tirante né niente, con l'antenna, il palo è corto, sono 2,5 metri di palo e basta, un palo molto robusto, rigido, con i tubi grossi d'acqua, e l'antenna deve oscillare perché quella è una frusta, io l'ho vista domenica quando l'ho piazzata che verrà un bel vento e vede come si muove, ma è fatta così, è la concezione sua che deve muoversi, non è rigida tipo la manto. Appagata. Lo so, è come la mia, dai. La mia quando ci metto si piega, è venuto quello di su a dirmi che era piegata a mantenere, ha detto non ti preoccupare, ecco lei deve lavorare così. Sto già preoccupato, già chi deve mi sabbigiare. Che io, facciamo prendere Riccardo, ha mangiato questo gelato Riccardo? Sì, ho mangiato la cassata. Diciamo due, tu calcola due giorni normali, una volta che sono, come si chiama, partite, minimo due giorni.